scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un artista bizzarro e multiforme. Che cos'è l'amore? Chi ha vinto? Sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del... È nato a Hannover in Germania nel 1965 da genitori di origine irpina. Cresce artisticamente nei circuiti underground dell'Emilia-Romagna. Il suo album d'esordio, all'1.35 circa, risale al 1990 e si aggiudica la targa Tenco tra le opere prime. Continua a pubblicare album, diventa popolare col brano Che cos'è l'amor, inserito nella colonna sonora dell'Ora di religione di Marco Bellocchio e in quella di Tre uomini e una gamba con Aldo Giovanni e Giacomo. Nel 2000 l'album Canzoni a manovella viene premiato dal Club Tenco con la targa per migliore album dell'anno. Nel 2012 pubblica il suo album greco Rebetico Gymnastas. Dal 2013 è inventore e direttore del Calitri Spons Fest, del quale ci ha parlato anticipandoci le novità della prossima edizione. Lui è Vinicio Capossela. Beh, insomma, è un festival che vorrebbe dare voce al potente immaginario di queste terre interne che hanno, in quella che normalmente potrebbe apparentemente sembrare un handicap, un loro forte patrimonio, cioè il vuoto. E quindi il fatto di essere scarsamente popolati, il fatto di avere spazio, di avere cosa, insomma, dare voce a questo potente immaginario che sta emanato da questa terra, un immaginario che personalmente io, insomma, inseguo e scandaglio, soprattutto in questo paese dei coppoloni, ma anche ecco, scoprire di quante cose risuona questo silenzio e di quante presenze piene questo vuoto, questa assenza. La nostra, naturalmente, si tratta appunto di dargli voce in modo soprattutto sostenuto da una convinzione che il vuoto è una grande risorsa a patto che non si trasformi, che non degeneri, ecco, in abbandono e degrado. Quindi è un coltivare il vuoto e il silenzio, soprattutto quello che è un po' lo spirito di questo, più che festival, festa. Ebro fino agli occhi, vuoto fino al cuore, gonfio di regine di dolore, pieno fino agli occhi, vuoto fino al cuore, gonfio di regine di dolore. L'alba non ha freddo i miei passi e la notte che li aspetta. L'alba non ha freddo i miei passi e la notte. Più stretti attorno, questa sera non mi basta il mondo. Si chiama Spons Fest. Spons è la contrazione di sponsarsi, da spungere, dal latino spungere, cioè la spugna si impregna, quando assorbe le cose, no? E poi assorbire, diciamo, delle cose che vengono dalle ritualità più festose, più liberatorie, che sono naturalmente il ballo popolare, lo sposalizio, non tanto il matrimonio, ma proprio la festa, no? Delle ritualità dell'unione, le ritualità del... E naturalmente senza trascurare quelli che sono poi in realtà i punti di confronto con l'attualità. Per esempio l'anno scorso abbiamo dedicato molto a questo sogno del treno, mi sono sognato il treno anche per portare il caso, per esempio, della ferrovia Avellino-Rocchetta che da 5 anni è sospesa e probabilmente non riprenderà mai più l'uso, e quindi in generale alle risorse comuni, il treno, tutto quello che riguarda un po' il fare comunità, che vada dal treno. Quest'anno, per esempio, lavoreremo sulla trebbiatrice. La trebbiatrice era una cosa molto comunitaria, perché era un apparecchio già fantasmagorico, sembra quasi un'astronave, che veniva portata di aia in aia e riuniva intorno a sé diverse famiglie, perché era un lavoro da farsi in tanti, no? Ecco, e a cosa serve la trebbiatrice? A dividere la trebbia, divide il grano dalla pula, cioè quello che è la sostanza buona, nutritiva, da quello che è il necessario da quello che non lo è. E quindi trebbiare in un certo senso è un po' fare esercizio di scelta, scegliere di cosa mangiare, di cosa essere fatti, no? E poi il grano naturalmente ha a che fare proprio col cibo, col nutrirsi, con la terra madre, no? Come si diciamo. E sono tutte ritualità molto collegate alla terra. Quest'anno vogliamo andare avanti con un festival dedicato, così si chiama, Sentieri dei Muli e dei Miti. Sono terre di mezzo, terre di frontiera, queste dell'Alta Irpinia, terre che danno anche delle grosse esperienze a livello paesaggistico e di... che è bello, sono belle da attraversare a piedi, con passo lento, e che sono state attraversate da sempre con mezzi lenti e soprattutto da asini, muli, equini umili che accompagnavano il passo dell'uomo nel suo percorrere la terra, e camminando e a passo soprattutto d'asino, e anche che poi è uguale al passo dell'uomo, è una cosa che stimola molto il pensare, il ragionare. Dopo bocche, lunghe scelie, nispicizie, tricettie, potrà stucca grazie a di plastica. Opce un cripplia iusciaia, utra utre via iusciaia, e il gemata e sciocche manastica. Если вы в своей квартире, я не на пульте четыре, выпил найти правильно дышение. Прочь влияние извиние, привлекайте на везне, в то глубокий до изнеможения. Очень вирус в силу мире, грипповирус 3-4, щелица растет заболевание. Quest'anno il festival sarà itinerante, coinvolgerà 5 comuni, che sono quelli di Aquilonia, Andretta, Calitri, Conza della Campania e Cairano, e sono tutti intorno a questa geografia che anche ho cercato di descrivere in questo libro, che si chiama Il Paese dei Coppoloni. Nel Paese dei Coppoloni ci sono tante mitologie, ce n'è una molto locale che dice che nel paese di Cairano, che è quello più in alto sulla punta di una rupe, ecco, questi loro abitanti là sopra si chiamano coppoloni perché stanno andando in alto, forse stavano più isolati, quindi c'erano grosse coppole in testa, e allevavano i sienzi, cioè i senni dell'intelletto, in forma di mosconi. Ora, questi mosconi dei senni, si può anche pensare che se li allevavano loro, forse perché da qualcheduno sono fuggiti e forse si vanno a ritrovare tutti là sotto la rupe di Cairano, mi immaginavo io da piccolo. E quindi l'abbiamo chiamato questo percorso alla ricerca dei sienzi perduti, cioè del buon senso, ecco, perduto. E quindi questo cammino itinerante è un cammino che dà sempre molto spazio all'immaginario e anche a questo rapporto con l'Oriente, con l'Oriente dei Balcani, che è un immaginario che io ho sempre sentito molto vicino. E quindi ci saranno musiche di frontiera, che sono le due frontiere, insomma, le due grandi frontiere epiche della musica, voglio dire i Balcani e la frontiera messicana, tra l'altro il Rio Grande, ecco, l'Ofanto come il Rio Grande. Per cui questi muli saranno accompagnati da una fanfara albanese e un gruppo di mariachi messicani che suoneranno rancheras e tutto quanto, e di volta in volta poi questa cosa si arricchirà di altre cose. Calitri, che è il paese capofila del progetto, manterrà la sua vocazione di paese dello sposalizio, con due giorni di sposalizio. Uno si chiama Sposalizio delle Culture, in cui cibo, musica e danza saranno apportati da diverse culture diverse. Abbiamo degli ospiti da Creta, grandi festeggiatori, e dall'Albania, molti dei paesi vicini sono anche di cultura arbresh, e gli ospiti delle varie etnie che iniziano a popolare questi paesi, fortemente spopolati peraltro. E se mi inganno a seguirla, trovarla a volte, se mi inganno a cercarla nelle strade morte, andare, andare in cammino senza che niente più mi trattenga, andare, andare il cammino non, non mi trattenga. Chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensare. Hai parlato del paese dei cupoloni, hai vinto il premio Dante allo Strega, il che vuol dire che ancora una volta in più, tu porti questa cultura, queste terre alla ribalta e anche in giro per il mondo. Che cosa pensano le persone che per qualche giorno così hanno un riflettore sul loro vuoto però ricco di significati? Beh, sono terre in cui non si saprà mai cosa pensano. C'è l'amico Alfonso Nannariello, ha scritto un bellissimo libro, peraltro non ancora pubblicato, l'ha chiamato con un titolo secondo me che dice molto di queste terre, dice l'indole del rovo, cioè il rovo è qualcosa di intricato in cui ti puoi anche fare male andarci in mezzo, che poi però nasconde anche tutte delle creature strane. Io è chiaro che non mi sento di essere portavoce di nulla, né di una terra né di un'altra cosa, semplicemente cerco di dare il mio apporto al di là delle contingenze molto legate così all'attualità, che spesso finiscono in denuncia di cose oggettive. Io però penso che sia utile controbattere anche dando voce al potente anche immaginario che c'è in queste terre, una cosa, questa, come diceva De Martino, rimodulare in voce un po' più universale una voce locale, no? E quindi mi piace, insomma, quello che tento di fare è portare a questo senso della frontiera, che quindi è qualcosa di non precisamente appartenente a un luogo, che mi hanno sempre evocato queste terre con cui non ho un rapporto davvero di non è il luogo in cui sono cresciuto, c'è una distanza che io mi cerco di conservare, perché credo che sia necessaria per rimodulare, diciamo, in questa voce più universale tutta una serie di cose che al di là dei singoli paesi da cui provengono, insomma, può essere un'esperienza interessante anche per chi a queste terre non appartiene o non è una restituzione, diciamo, di un'idea, anche tutto quello che ha a che fare con l'infanzia del mondo, della propria, ti dà un'idea di paradiso perduto, no? Questo è un po' quella zolla di paradiso perduto che ha fatto parte finora della mia immaginazione. Ed è tutto per questa puntata di Voci in Scena con Vinicio Capossela. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.